Giovedì, quarta settimana, lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Inno. Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili. Dona un linguaggio mite, che non conosca fremiti dell'orgoglio e dell'ira. Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male. Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode. A te sia gloria, o Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Prima antifona. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. E insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Seconda antifona. Come un fiume, scorra la pace verso di te, santa città di Dio. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno, poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Come un fiume scorra la pace verso di te, santa città di Dio. Terza antifona. È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene. Il Signore ricostruisce Gerusalemme,